non è indicativo il numero quanto il fatto che ci sia un evento e che ci sia un'occasione sempre nuova di accostarsi non solo alla biblioteca come ente, ma anche di conoscere, di incontrare o di ritrovare una persona che ha scritto e che attraverso un libro propone delle sensazioni, dei sentimenti, ma anche soprattutto delle idee, dei punti di vista. La poesia non è facile da veicolare, giusto. Confermava prima Sara Piri, che abbiamo conosciuto già in primavera, poi a Poetry Slam, sì, che era stato organizzato da questa biblioteca, così per celebrare il 21 marzo, giornata mondiale della poesia, e che aveva a quell'epoca richiamato tanti partecipanti, sì, erano ben 30, ma era concepito come un agone, quindi probabilmente anche un po' il mettersi in gioco, fare una gara, è un'altra cosa rispetto al raccontare le proprie emozioni in una maniera molto più intima, come è invece la presentazione di un libro e di una raccolta di poesie come quello che abbiamo stasera con l'ospite appunto Sara Pirri, che è La nudità violata. Il titolo è veramente, poi ce lo spiegherai, e la scelta di questo titolo è molto suggestiva e significativa, anzi pesantemente dire significativa. E certo, la scelta della poesia è particolare, è un linguaggio che effettivamente è molto affascinante, però complesso e oggi come oggi forse poco usato. L'abbiamo visto e abbiamo visto che la nostra società parla twittando, ci sono degli slogan, forse molto ermetico, ecco, il nostro linguaggio, però in realtà per la poesia c'è poco spazio. Ogni tanto mi stupisco anche ascoltando semplicemente i dialoghi di alcuni film di 30-40 anni fa, la qualità di un dialogo oggi è completamente sparita. Spaccetta. Se io chiudo gli occhi e ascolto solo il film, si sentono solo rumori molto forti e la qualità del dialogo è veramente scadente. Già questo è un segnale, no? Figuriamoci la poesia come stenta e fa fatica ad inserirsi in un contesto del genere dove si fa fatica a far attecchire proprio anche un eloquio migliore e non povero come purtroppo sta accadendo. Ciò nonostante, ecco, la biblioteca, ma soprattutto i protagonisti delle biblioteche, che sono il nostro pubblico, i frequentatori della biblioteca e chi alimenta anche poi il materiale che può essere messo a disposizione, quindi mantiene un contatto attraverso la biblioteca con il pubblico, sono gli autori e le autrici che hanno voglia di lasciare una loro visione delle cose, insomma, no? Le loro sensazioni. Ringrazio pertanto Sara Piri che si presta questa sera ad essere qui con noi, con il nostro pubblico. Diceva una settimana un po' difficile questa, dovremo memorizzarlo anche noi come organizzazione, che effettivamente è una settimana un po' debole, però insomma la biblioteca quando riesce a conquistare una persona siamo già contenti, perché già quello è stato un contatto che non si perde più, è difficile perdere poi quando si è creato un legame. Io faccio tanti auguri a Sara perché so che è una persona che è impegnata non solo con una famiglia ma ancora anche con lo studio, quindi è volonterosa, sta andando avanti, è una indagatrice dell'animo umano e quindi a me fa piacere averla di nuovo qui con noi e spero anche in una nuova edizione del Poetry Slam nel 2020. Volentieri. Con molta carica. Tanti auguri intanto. Grazie. E grazie a voi di essere qui stasera. Grazie. Grazie che siete venuti. Io sono contenta di aver trovato uno spazio qui alla biblioteca dove ho lasciato anche abbastanza casualmente il mio libro mentre giravo per Bolzano appunto un anno fa, che l'avevo appena pubblicato. Io infatti ho scelto di pubblicare con un'autopubblicazione la mia, con Crossing Poetry. E grazie. Non ho scelto una casa editrice, ho deciso di autopubblicarmi con questa, è una casa editrice, lo è, ma è anche un movimento che cerca di trovare giovani autori. Quindi si rivolge appunto a un modo di fare poesia che prende anche spunto dalla Beat Generation, un po' non so se voi conoscete Ferlinghetti, la famosa poesia di Ginsberg. Parlo di loro non perché io ami in modo viscerale la poesia di Ginsberg, ma perché per me la poesia è comunicazione. Quindi non è, nel mio caso, è una, anche una denuncia. Infatti da qui parte poi il titolo della raccolta che mi è venuto. La nudità violata è un titolo unico perché non si trova da nessun'altra parte. Mi è venuta così di impulso scrivendo una poesia che ho dedicato a Pasolini. E perché soprattutto i periodi che ho passato a Matera ho letto molto Pasolini, ho letto molto Rocco Scotellaro, un poeta lucano che è stato anche sindaco, quindi impegnato in politica, e ho sentito dentro l'urgenza di scrivere qualcosa che sia non solo un piacere mio personale, la scrittura, ma che voglia parlare di una realtà, una specie di neorealismo che vuole raccontare il mondo sì visto dai miei occhi, ma anche subito in un certo senso da me, come inserita in un sistema in cui ogni giorno ognuno ha dei ruoli, ognuno ha delle aspettative, e in tutto questo per me c'è la poesia. La poesia è qualcosa di reale, concreto, non sono semplicemente parole che si incastrano in modo, modo geniale, ecco. È proprio uno stile di vita, ecco, per me. E quindi la nudità violata, magari per chi sente questo titolo la prima volta, può suscitare, può pensare a un corpo, no? Perché si parla di una nudità, ma per me è anche una nudità astratta soprattutto. E la nudità in cui versiamo, ecco, in cui siamo inseriti dalla nascita, e che attraversiamo in varie sfumature, ecco, della nostra esistenza. E, è un modo per guardarsi durante la propria crescita, perché ecco, in questo libro io sento una mia crescita personale che passa attraverso la scrittura. Quindi è un modo di guardarsi attraverso il tempo e nel tempo, e sentire appunto la crescita come motore di tutto. Quindi io vi vorrei leggere adesso. Muretti a secco. Hai le scarpe slacciate, gridavo. I muretti scottavano, la tua ombra si perdeva nel grano. Il sole profanava la tua bellezza, esposta, la tua pelle in mostra. La distanza ci appartiene, come un muretto a secco, i sassi bollenti, la strada verso il mare. La tua ombra aveva scelto la sua strada e tu correvi all'infinito. L'aria ti sarebbe bastata, un'anima sconfinata. Scrivimi quando arrivi, sono io che ritorno, dove tutto è cominciato, dove mi hai guardato, dove ho ingoiato il tuo nome come rugiada in estate. Tu corri, tu scivoli sull'erba bagnata. Ho paura che cadi, ho paura di tenerti. Il tuo destino scorre ai bordi del mio letto. Ci sono molte cose le ho scritte a Matera, che è una città che mi ha, appunto, dove ho incontrato la lettura di Pasolini. E e mi ha fatto scrivere, ho sentito la rabbia anche di Pasolini, ecco, forse anche l'indignazione verso la situazione che ho vissuto, ecco, e quindi c'è ribellione, ho provato a descrivere questa ribellione. A ogni donna il suo fuoco, arso al tempo, le sue gentili forme divampano in carne. La dolce mattanza Lo chiamano amore. Ci lascia le ossa. Nessuno può impedire a una donna di bruciare. Una costola o un pomo dorato mi porterà in dono. L'amore delle leggende. Mi parli di Itaca mentre brucia la città. Grazie. Questa l'ho intitolata Consumo dunque sono. È un po' quel famoso cogito ergo sum. Allora io ho scritto Consumo dunque sono. E tu, vittima del consumismo, che guadagni meno di quello che spendi, perché te la prendi con me? Io che dovevo essere la tua musa ispiratrice, sono diventata anche io vittima della tua ira. E no, non ci credo, perché è nelle righe del sistema e non sono contro il sistema, sono dentro. Esco, dormo, penso, una dialettica in cerca di una sintesi. Ora prendo posizione, ora cambio, come la borsa che scende e che sale. Dannate monetine, non suonate gloria, ma schiavitù. Prendo atto della mia prigionia e sono libertà. Sì, la sento guardando il cielo. Sono sazia, non consumo e non sono. È forse una, è un grido. Io rileggendomi so che quello che ho lasciato è come se attraversando la città io lasciassi, attaccassi i miei pensieri ai muri, e adesso a distanza sento quello che è cambiato, sento che ci si può veramente guardare con occhi diversi durante il tempo, ma no? Anche un sentimento come viene poi come è capace di mutare ma di rimanere sempre uguale. Mucchi di parole. Forse ebra di te ci potremmo fottere tutta la notte. E forse le mie parole non c'entrano quell'indicibile connessione delle cose e sono solo mucchi di lettere dove noi ci sediamo sentendoci sui grattacieli del mondo. Sono incarti di parole, sono filosofie di filosofi smarriti, montagne di parole. Ma tu vuoi correre e una poesia non è nulla, come è la filosofia, mentre la benzina verde ti fa girare a fuoco i libri banali letterature, che bruci questo secolo ad alta velocità. Mi scorri nelle vene, non altrove, oltre la linea invisibile, oltre l'orizzonte. Labili confini ci confinano in zone franche. Ti ricordi papà? Le corse in bicicletta. La vita sembrava una manciata di aria in bocca. La corsa e le salite. E tu che mi ricordavi la discesa. Ho i polmoni grandi, ma a volte perdo il fiato. Mi manca la bicicletta fucsia. E ora che tutto perde colore, ho le unghie sporche di sabbia e lo smalto rosa. Io che ero fatta di treccine e perline. Ora in tasca una vita da pedalare. Accelera e non guardare indietro. Ci raccoglievamo in pezzi, non sapendo dove attaccare il nostro dolore. Erano momenti vuoti che non volevano essere riempiti dal solito frastuono, da parole che dentro non fanno alcun suono, parole circostanziali che non rimarginano. Ci mormoravamo negli occhi, le pupille divoravano il nero intorno, restituivano iride di vetro, un pianto congelato. Non piangi più, così arrivava la sera e svuotati dal giorno ci nascondevamo sotto un cuscino. Mi tenevi le mani, mi dicevi, ci stancheremo d'essere tristi, ma io sapevo che finché avevo te non lo ero mai davvero. lacrime nel frigorifero. Le vedo scendere, brillano alla luce elettrica. Da quando te ne sei andata il frigo è vuoto, il freddo che ci separa, le cose che non ci siamo detti, congelano nel freezer, lacrime di ghiaccio. Faccio la spesa, una lista sbiadita in tasca. Cosa mi manca? La ricetta non riesco a leggerla. Congelerò il cuore, una vecchia canzone suona un nuovo amore. Dov'è il bosco? Lo sai, mi urlo dentro quello che non riesco, mi urlo dentro quello che posso. Dov'è il bosco? Negli sguardi ci si perde, ci si ritrova più soli di prima. Cosa promettevi in quelle spensierate sere? C'è un disco che gira vuoto, c'è un disco graffiato di ricordi, c'è un vento che non sento più. È dura battere il tempo, i ballerini hanno scarpe consumate, ogni sera le appendono al chiodo della fortuna. Improvvisa la tua danza. No, non sono mai abbastanza. E ogni sera pago il conto al fiato che butto per strada. Mi urlo dentro l'amore che resta. Petali, petali del mio dolore, non li raccoglierai in mio nome. Sarà il rumore del vento a portarti la mia tempesta. I miei capelli iridescenti, le notti, braci ardenti, le fiamme di un amore pronto a spegnersi al caldo malinconico di un agosto senza riparo. Questa l'ho scritta dopo che ho letto Sciascia. Non so se voi l'avete mai letto. Un autore che a me, personalmente, dopo averlo letto, mi ha lasciato qualcosa. Quindi io, subito dopo averlo letto, ho scritto Il vizio della cosa. Si consuma e diventa presto cenere. Sembra rinascere ogni giorno. Sembra una sigaretta sempre accesa. La cosa. Cosa è tuo? Cosa è mio? Cosa è nostro? Esiste un'equazione in grado di spiegare la fisica del nostro paese? Quello che giornalmente si muove, la palla che passa e non si distingue, il calcio. Foglie di carciofo ordinate a formare una corona da re. Fumo grigio su albe italiane. Mediterraneo cresciuto come una palma. Zone di ombra e zone di luce. Una sigaretta è stata appena accesa. Adesso volevo provare a leggere, grazie, che è la prima volta che leggo questi racconti che ho scritto, infatti ce li ho, eccoli qua, è la prima volta che li leggo, perché secondo me è un breve racconto in realtà, ma sì, è un racconto, ma è scritto, insomma, a modo mio, e quindi l'ho intitolato Piombo Rosso. Non c'è felicità qui, quello che mi invento ogni giorno per andare avanti. Sei sempre tu il motore che ispira le mie lacrime. Oggi non è scesa nemmeno una, non so se è un bene o un male, lacrimare il mio male. A volte mi capita durante la colazione di trovare il caffè e latte macchiato da questa tragica commedia che è la mia vita. Allora, l'amore finisce in tragedia. Bevo caffè e latte. Non so se mi devo svegliare o addormentare di nuovo. Lui chiama. Io ho voglia di pisciare. Forse mi piscio ancora a letto. No, non me lo posso permettere. Mi invito alla calma, alla ragione. Questo libero arbitrio che mi porto addosso, il mio recesso dal mondo. Ti ricordi quando correvi con la macchina, ma tu lo potevi fare perché sapevi guidare? Così io mi irrigidivo nel mio sedile, non capivo il senso del rischio, l'ebbrezza della velocità. Io che potevo andare a 50 all'ora e permettere ai miei sogni di correre via. Poi sull'asfalto si sarebbero schiantati, come ogni cosa che è destinata alla gravità, all'inesorabile decadenza. Quindi decidevo l'ora e il giorno in cui tutto sarebbe decaduto. La data di scadenza, tra le nostre righe, un codice a barre. Parlami della libertà. Ascoltavo fino a notte fonda le tue storie, mi fondevo con le tue parole e tu davvero mi facevi sentire la tua principessa. Piombo rosso, il nostro amore era acciaio. Mi dicevi sempre che dovevo scrivere un libro sul nostro amore. Eccolo, ti ho sempre detto che non so scrivere libri. Al massimo andare a capo, ogni due parole, a capo, due righe di te. Tra uno spazio e l'altro hai urlato. Ci siamo urlati addosso, tra una capo e l'altro, la nostra rabbia. Tra un sospiro e l'altro, i nostri baci storici. Ho cambiato aria e umore. Piangi per me. Questi anni al sud hanno riempito le mie notti con la poesia e i grilli la sera e quell'aria gramigna che scivola fra le lenzuola e rinfresca il sudore degli anni. Andavo a prendere le cozze, ne grattavo i gusci fino a renderle luccicanti. Le cucinavo con il riso nel forno, le cozze. Va bene, vieni qua a volermi baciare la mano. Tu che di promesse ne hai fatte tante e io ti ascolto con lo stoicismo degli anni, con i miei affanni, mi chiedi ancora di essere la tua stella nel buio della tua miseria. Ci siamo innamorati senza misura, nessun anello ha mai luccicato al mio dito e tu che odi l'oro e le cose costose e mi dicevi oggi ancora il mio amore ti può bastare. Arriva un momento in cui vuoi vederti luccicare il nostro amore all'uscio del domani. Allora scendevamo le scale, di fretta, c'erano cose da fare, cose da sistemare, guai da evitare. C'erano immensi campi di grano, quel paesaggio mi incantava e al ritmo delle cicale ci dovevamo ricordare d'essere formiche. Cosa fanno le formiche? Tu che volevi cantare e mai dormire, tu che hai finito i sogni che mi avevi da offrire. La ballata dell'amore stanco, forse non ho mai conosciuto, ho solo sperperato tutto l'amore che avevo, ad ogni angolo sognavo il suo viso sereno, ma la felicità non passa di qui, sono io con i miei piedi che improvviso follia. Ci siamo davvero rovesciati i nostri anni addosso, sfrenati, ora piombo rosso, ti piove addosso. Leggo un altro racconto, avete voglia di sentirmi? O leggo altre? Questa l'ho intitolata La ballata dell'amore cieco. Quella sua pelle, color pesca, si sbucciava sul vento che si infilava tra i suoi ricci. Ora era quasi arrivata, appuntamento al ponte di mezzo. È stato il ponte dove si sono dati il loro primo bacio. In mezzo alla città, navigavano lontano tutte le incertezze, immersi in un mare di carezze, le sue labbra erano l'estensione delle sue. Questo durava il tempo di un tramonto. Ancora adesso corre con il pensiero agli appuntamenti, la fretta che divorava le suole, alla città che si inabissava nel buio e in lei sorgeva quando lo trovava appoggiato al muretto ad aspettarla. Ore, giorni, minuti, le sue gambe a penzoloni sul muro, i loro giochi sul cosa sarà, vinceva sempre lui. Allora, cosa sarà? Domani troverai un pretesto per arrabbiarti, mi dirai che sono egoista, che non ti penso abbastanza e questo perché ti vuoi sempre mettere in mezzo al mio caos. Folti capelli ricci condivano di leggerezza anche le verità più amare. Scendi giù, Marilu, scendi e balla, senza perché, fino a quando ti ho qui con me. Era la ballata dell'amore cieco. A pestarsi i piedi sono bravi tutti. Ma come ballavano quei due? Due anime nere senza lutto. Due anime nere senza trucco. Lei sapeva quello che ogni giorno strappava la vita. Sapeva che il ballo in un giorno sarebbe finito e i suoi occhi avrebbero guardato tutto diversamente. Una di quelle che chiamano brutte malattie. Aspettava quella chiamata, i suoi ricci tirati al vento, quelle melodie che ti porti addosso, quei suoni che ti accordano l'anima, chiusi in un dolore più grande di loro. Eccola arrivare al ponte dei loro tramonti, i capelli freschi di una ventenne, le vene mescolate alle sue. Prende il telefono che inizia a suonare. Solo due parole, quelle parole. Sono in ospedale. Era un freddo metallico quello che sente, puntuale nel suo corpo, il male che divampa nelle ossa e brucia qualsiasi speranza. Eppure, quando andò in ospedale, nei suoi occhi c'era il ballo più bello che potesse aspettarla. E lei era arrabbiata con il destino, così tanto che la sua mano era l'unica cosa che restava. Alla frontiera mi troverai, al confine con tutto, se sei disposta a ballare tanto. Quella maledetta, malefica malattia lo prendeva, lo torceva da dentro. Le distanze colmavano in un solo gesto d'amore. Sai, di vite passate e di vita in divenire. Sai di vento e di pesca. Una luce in questa tempesta. Grazie. Mani bucate. Lo vedi, ho le mani bucate dal vento e un ammasso di parole in testa, una finestra sempre aperta, una sedia che mi tiene compagnia. Non so se so fare poesia. Ho svuotato le tasche per sentirmi più leggera. Mi torna indietro il vento e io ancora carica di malinconia. Mi piove dentro la mia follia, voglia di tutto, che sia altro da questa frenesia. Forse è vero, scappo via, ma non mi è mai piaciuto giocare a guardie e ladri, la solita monotonia, dei sensi sconnessi e dita puntate sul primo che sbaglia. Oso sbagliare. Non so se hai visto, perché leggendomi io so di essere malinconica, purtroppo c'è sempre malinconia forse quando si... Quando si scrive. Invece questa l'ho scritta perché volevo essere un po' giocosa, un po' canzonarmi, ecco. Ho scritto poeti malfatti. Tu se vuoi chiamali gatti, li puoi trovare nelle crepe delle cose rotte, li puoi definire strani nel loro vagare. Hanno la testa che è un buco, forse qualche mina di troppo. Ma da quel buco ci passa aria che fa respirare il cuore. Polmoni cantano, gambe macinano, è la vita che gli cammina dentro. E loro possono solo cantare con le fattezze a loro date. Vomitano la vita in un canto, in un disincanto lo stupore. Porterai a casa un loro malfatto sentimento. Non aver cura delle loro parole, non vogliono lasciar traccia delle loro malfatte impronte. Loro vivono in un verso d'amore, di cui solo il cuore sa riconoscerne le liriche. Cuore di principessa, il tuo nome, l'eroina della famiglia. Forza, giù dalla culla. Nella vita ti devi distinguere. Nella vita ti devi confondere. Cuore corsaro. Sono alte le onde e le cavalchi con maestria, ma quando cadi hai le vertigini e, mamma mia, portami via. Cuore infranto, in cerca di un ti voglio bene, osa amare la crepa che poggia su un muro, è la storia di un cuore maturo. La zona di Franca. Franca, sei riuscita a capovolgere il mondo e sotto è diventato sopra e sopra è diventato sotto. Ma cosa ti importa di giusto o sbagliato? Rivoluzionaria, sbagli di proposito perché sai che è giusto imparare a stare sulla linea del confine oltre il quale ci si divide. Franca, tendi il filo e imponi un salto. nell'equilibrio delle cose. La bilancia sta al centro e i pesi pesano i passi. La libertà non è né di qua né di là, è nelle possibilità. Fragilità. La bellezza è fragile. Eppure, se ti guardo, mi sembri eterna, una dimora nella mia anima, una porta sempre aperta su un infinito istante che è la bellezza. Come un petalo che muore, un'altra rosa da sognare, un altro riparo da inventare e nuovi cieli da guardare. Cos'è la bellezza? Quello che io vedo in te, una scia di speranza che non dà tregua alla rassegnazione. Un muro sgretolato, un ricordo passato, consumato, vissuto. La bellezza è eterna. È eterno il piacere di scoprire. La bellezza è saper chiudere gli occhi e saper immaginare un mondo ancora da inventare. C'è che tira vento che fa spavento. C'è che non è più tempo per un risentimento. C'è che ho dentro un mare in deragliamento. C'è che il treno l'ho preso e me ne vado contro vento. C'è che le tue strofe mi fanno girare e ho voglia di cantare. C'è che è il momento di darci un taglio al tuo lamento. C'è che sono furente di sapere quello che hai ancora da dire. C'è che ho voglia di superare ogni mia esistenziale paura di sbagliare. C'è che ogni istante che scorre è un vuoto da riempire e da bruciare. C'è che se la vita consuma i ricordi, non voglio più ricordare. Ogni goccia è caduta, seguendo la sua traiettoria. Non c'è più niente da cambiare, solo vita da amare. Palazzi, svettano come spighe di grano, un balcone che aspetta maggio, un piatto avanzato, un orologio fermato. Vecchi palazzi assumono volti diversi nello scandire delle ore, come se ciò che accadesse dentro evaporasse fuori. Ciò che non mi hai detto sull'uscio di un nuovo inizio, quello che non mi hai detto ha oltrepassato i muri e come zolletta in caffè bollente ha dato aroma al tempo passato, quello che non chiede d'essere raccontato, ma solo immaginato. Questa l'ho dedicata ai miei nonni, siccome la mia nonna ha quella brutta malattia che chiamano Alzheimer. No, le ho scritto un Natale e l'Alzheimer. Un angolo vuoto che ho dimenticato di addobbare in una scatola dimenticata, come l'estate passata. È lì che avevo posato i miei buoni propositi. È lì che ho dimenticato di ricordarmi che a Natale verrà qualcuno a trovarmi. Senza trovare Dobby, ma un uomo e una donna con una storia da raccontare. La nostra vita è passata, lo sai. In questa casa ogni festa è stata onorata. Un piatto pieno mai mancherà. Saremo forse un po' più stretti, qualche malanno in più. Gesù bambino è di là, nella credenza. Non so se deve arrivare o se è già arrivato in questa casa. È un malanno di stagione la vecchiaia. Passa con la primavera. Sì. A primavera sarà nato sicuro. A Natale aspettiamo che arrivi qualcuno che si ricordi. Aspetta, scusate. Sì, a primavera sarà nato sicuro. A Natale aspettiamo che qualcuno si ricordi di tutte le stagioni che ha vissuto, quell'angolino anonimo che si illuminava solo a Natale. Ora un altarino, un centrino, una foto. Oggi sposi. Storia di un nero. Nocciolino come sei, in un guscio ti sei imbarcato, gheriglio tra le onde solcate, nella culla di madre terra. Il mare ti è amico e nemico, e il suo laico blu ti può prendere e portare a fondo, ma sai che il prezzo da pagare è l'essere inghiottito. Tu, gheriglio di noce, l'hai sempre saputo che per vivere bisogna sapersi donare alle onde. Tu, nocciolino vagabondo, occhi negri che sanno il prezzo, e non hanno prezzo, il valore di un milite in viaggio verso Itaca, promesse di gloria, Sei tornato spoglio, crudo come ti ha fatto, sventrato dalla natura, indomabile potenza, quella che ti ha gettato qui, come pedine sonanti, hanno tintinnato sui vostri orizzonti, sognati da occhi negri di speranze, ancora negri di civiltà. Bellezza. La bellezza si mostra nella sua nudità, inerme, impotente di fronte al potere. Il suo fine è l'esistenza stessa, candida ingenuità, che porta a rifiorire nelle mani del destino, in un mondo in divisa di spine, che sradica radici. Così la bellezza guarda la terra e il cielo senza stancarsene mai. Avete ancora voglia che vi leggo qualcosa? Siete ancora... Ci siete ancora? O concludo? Leggo l'ultima cosa? Concludo. Questa qua sarebbe l'incipit per una storia che non so se arriverà. Arriverà. Questo è l'inizio. Concludo così. Con Ragnetto e Lumaca. Piacere, Lumaca. Signor Ragnetto ha le zampine di velluto e ha un cappello nascosto. Lumaca, mezza ubriaca di sbava e di pioggia, decide di cambiare rotta e di attraversare l'intero prato, dal tarassaco all'oleandro, dal muschio al ribesnero, gli acidi acini di uve in maturazione, lei nella sua botte d'avorio, una chiocciola spirale, sul petalo bagnato, chiede al ragnetto che la incanti con i fili di seta, che la guardi dall'alto di una quercia a raccontarle la bellezza di una notte indifferente all'amore. La natura, diceva, nudità senza vergogna, e le chiedeva ad esser notte. Sulla punta dei suoi occhi si incastrava un po' di cielo e lei sgusciava alla cadenza della luna, alla cadenza dell'amore, che la trovava ancora una volta impreparata. Grazie per avermi dato questo spazio, grazie agli amici di Lettera 7, io faccio parte di un gruppo, il caffè letterario di Lettera 7, dove ogni sabato mattina ci incontriamo, almeno chi può, io non riesco a essere così assidua nella frequentazione, ma loro sono assidui, loro sono a Lives. Noi quattro siamo del gruppo. Sì. Abbiamo fatto anche un reading insieme. Abbiamo fatto un reading insieme noi quattro. Un ragazzo e una signora che ha compiuto 90 anni. No, ma sì. Sono stati anche i nostri ispiratori per il Poetry Slam, no? Era bello di vedere questi passaggi intergenerazionali. Avvicinare la gente, perché qua è secco. È secco. Questo lo chiamo secco, ma presentare così là con un bicchiere di vino, con stuzzichino e vino. Leggi qua, sa signora, scusate, dove è il bagno? È la più bella cosa che esiste. Sono pagine secche. Pagine secche qua. Beh, grazie che siete venuti. Devo dire, perché appunto a Live si siete via Marconi, la nostra biblioteca è via Marconi. E ci siamo conosciuti via Marconi. Dobbiamo trovare uno slogan via Marconi. Grazie per essere venuti, grazie per avermi accolta, grazie.